senza dubbi né paure di ricordare male. Sì, è così, in questa mente mia ci ho messo tante cose per non rischiare di perdere, di dimenticare quello che oramai può vivere solo nel pensiero. Qualcosa che richiami a me, qualcosa che mi parli di te. Sono come storie da cantare i nostri giorni, di fiducia, di speranza, deleteria, arbitraria esistenza. E l'eco dei tuoi passi ti accompagna incontro alla notte, e i tuoi timori come le voci fra muri, distanze vuote. Si è così, in questa mente mia ci ho messo tante cose che trovano posto dentro me, tra il sogno e la ragione, e piangerò o riderò per ogni mio pensiero o qualcosa che si è così.